troverò alleggerito il mio riposo. Ed oro qui d'angelica fu sposo. A te, Mirto orgoglioso, vuo sfrondarti, schiantarti fino all'ultimo tronco ed estirpar dalle radici il tronco.